non tenía una herida, sufría, sufría. Le dije no es nada, más mentía, lloraba, lloraba. Por ti se ha hecho tarde, es ya noche, no me detengas, déjame ir. Me dijo no mirarme en los ojos y me dejó cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va. Otra noche reía, reía, besándome él quiso que mi orgullo se fuera, se fuera. Me dijo estemos juntos un poco, qué ganas de decirle que sí, pero sin más mirarle en los ojos. Que cantando así, sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va. Y se detendrá. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va. Detendrá, quizás, y se detendrá. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Para darme calor. Si alguien oro me ofrece, lo venceré con la espada. A quien un trébol le ofrece, con copa un brindis haré. Oh. Non cerco un re di denari, io cerco un fante di cuori. Sai la mia reggia dov'è? Sotto le stelle con te. A chi mi offre denari, io gli rispondo picche. A chi mi offre dei fiori, tutto il mio cuore darò. La vita è un gioco, mischia le carte, ride chi vince, chi perde piange, ma la partita è sola. Nella vita ci vuole fortuna, una rivincita non ci sarà. Addio bel re di denari, amo il mio fante di cuori. La tua ricchezza cos'è quando l'amore non c'è? cos'è la pianura padana dalle sei in avanti, una nebbia che sembra di essere dentro un bicchiere di acqua e hai, è già. L'ha detto anche oggi la radio ed è vero, è luna passata nell'auto, mi sembra di essere sola perché tu non parli con me. È ora di dormire ma si deve ancora viaggiare, dopo il ballo domenica sera è sempre così. C'è solo un semaforo rosso quassù, nel cuore, nel cuor di Stradella, che è quella città dove tutte le armoniche di questa pianura sono nate e qualcuno le suona così. Il motore al minimo e sento passare nell'aria quel suono, mi guardi nell'ombra, ti sembro diversa, magari più bella, chissà. Al dolce suono della fisarmonica di Stradella, la tua donna può essere più bella di quello che è. Con me.